Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, alle 8:20 minuti. 14 marzo, in diretta con un sole nuovo. Mi limito a questo, però sembra giusto in questi giorni. Abbiamo anche commentato, io ho dato la solidarietà a tutti voi colleghi del Sole, eccetera. Ieri uno sviluppo, e comunque secondo me è uno sviluppo che è importante sottolineare, con l'addio al vecchio direttore Guido Gentili. Auguri da parte mia e nostra e mia e nostra. Comunque, parliamo dei santi, va. Lasciamo stare i fanti e parliamo dei santi. Auguri a chiunque si chiami Matilde, perché oggi è San Matilde di Germania, moglie di un imperatore, Enrico I, il fondatore della dinastia la dei Sassoni. Cara amica di Angelica, auguri, ecco, Matilde. Matilde, che io infatti conoscevo, pensa, Matilde è nel primo giorno in cui entro in una classe mista, in prima media, cosa che per noi abituati alle classi separate nel nostro piccolo quartiere operaio è indimenticabile per il tumulto ormonale che cioè, scoprì che esistevano le bambine praticamente. Ecco, Matilde era una simpaticissima compagna di tutte le scuole medie, cui poi si era molto amico, che aveva i capelli rossi alle pippi calze lunghe, sai, con i due picchi, e io da dietro gli tagliavo con le forbici, mi vergogno ancora adesso a dirlo, quando c'erano le ore di disegno. No, ma lei lo sa benissimo. Scusa Matilde. No, vabbè, le scuse dopo N anni. No, gliel'ho fatta. Ma ero proprio perché capisci, vedevo questa cosa, credevo fossero finti, non lo so, insomma, ero un po' indietro nella comprensione dell'universo femminile, questo lo devo ammettere, ma è uno dei 40 Sant'Alessandro, anche io adesso te le ricordo tutti. Sant'Alessandro di Pidna. Sì, e quindi oggi è anche il tuo onomastico. Tra le tante ricordi legati a questo giorno degli anni passati, oggi si scopriva, ohimè, il cadavere dell'editore Feltrinelli sotto il famoso traliccio di Segrate nel 1972. Sembra veramente un'epoca preistorica fa, eppure hai visto l'intervista a Inge questi giorni, che hanno ucciso. Sono ferite in realtà storicamente ancora aperte, non chiare. Non si riesce a dire con chiarezza ancora che c'era una parte intellettuale italiana che aveva fatto la scelta armata, la scelta sbagliata, e invece c'è ancora chi li ricorda come se fossero delle vittime, dei martiri, e non della gente che non aveva capito, secondo me, alcune cose fondamentali della storia. Almeno questa è la mia opinione. Auguri anche all'enorme, gigantesco ed è sempre vivo e combatte con la penna insieme noi, Giorgio Forattini. Ah beh, come no. E, in tutto questo, caro Oscar, oggi abbiamo una puntata molto ricca. Parleremo anche noi di legittima difesa, lo faremo però con il magistrato Carlo Nordio, che è venuto a ritrovarci tra poco, anche perché si è scoperto adesso che la versione di questo ristoratore di Lodi comincerebbe a traballare, nel senso che c'è un testimone che parla di due colpi di fucile. Poi non si capisce se ha colpito la schiena, eccetera. E quindi vorremmo anche capire, in punta di norme, perché è chiaro che poi la gente dice: ah, basta, uno entra lì, bisogna sparare, no? Io su questo, tra l'altro, non sono totalmente in disaccordo. Cioè, se uno arriva di notte, mi entra in casa, io non ho armi, però il diritto a difendersi, insomma, la paura anche che ti spinge a reagire, ci sta. Insomma, poi almeno io ho armi, ma io confido nei miei 5 gatti. Quindi... No, esatto. No, ma detto questo, il problema a noi tocca ricordare, facendo il nostro mestiere di informazione, a tutti che la delicatezza di ognuna di queste vicende è che, siccome la norma del codice prevede per la legittima difesa e per graduare tra l'eccesso colposo di legittima difesa e l'omicidio preterintenzionale con le attenuanti da legittima difesa, quali sono gli elementi per cui si gradua il capo di imputazione e quindi cambiano le pene edittali? La famosa proporzionatezza della reazione alla minaccia, e siccome in quei nanosecondi in cui si percepisce la minaccia, magari al buio, si sentono solo rumori, identificare il livello di minaccia preciso e mettersi col bilancino a dire adesso proporziono la mia difesa, auguri a chi ci passa, perché io non ne sarei capace, ecco che poi derivano i problemi. Ma comunque ce lo spiegheranno Ordio, al netto di poi quello che pensano le persone, che molto, però molto visto pratica. Che c'è stato uno sviluppo ieri alle 8 di sera, la Corte d'Appello di Venezia ha annullato una condanna in primo grado di 2 anni e 8 mesi al tabaccaio Birolo, che aveva ucciso un ladro moldavo, che era entrato a nottetempo. È stato assolto in appello. Era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, è stato assolto, ed è stato assolto perché il fatto non costituisce reato. È certo. Stato lo stesso pubblico ministero. Gli hanno tolto anche il risarcimento da 300.000 euro che doveva dare alla famiglia, quindi, della vittima. Completamente ribaltata la. E questa è un'altra sentenza che, come ovvio, cari ascoltatori, fa discutere. Il fatto non costituisce reato, secondo la Corte d'Appello. Sì. Però vogliamo partire prima con il nostro ospite per raccontare quello che è successo a Napoli. È il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno a voi, grazie. Allora, intanto, chiariamolo subito. Chi li deve pagare, secondo lei, questi danni a Napoli? Parliamo ovviamente della manifestazione che è degenerata anche con violenze per l'arrivo di Salvini. Chi li deve pagare? Innanzitutto c'è un danno all'immagine, noi siamo parte lesa per tutto quello che è successo, perché quella non è Napoli e non sono i napoletani. Poi, visto che voi parlavate prima e vi ho seguito nella parte finale di procedimenti penali, nei procedimenti penali c'è la responsabilità personale che è individuale. Quando la magistratura accerterà chi ha commesso dei danni, li dovrà chiaramente pagare, questo mi sembra ovvio. Quello che ferisce e che quella immagine finale violenta, dalla quale noi prendiamo nettamente le distanze, ha completamente cancellato una manifestazione pacifica di 10.000 persone che, nonostante il clima di tensione che in questi giorni si era acuito, si era manifestato, avevano, come dire, con allegria, con gioia, con musica, anche con contestazione politica dura, manifestato. Come al solito, poche persone rovinano le cose belle. Ma secondo lei, io non ho capito, Salvini ha diritto di venire a Napoli a parlare, sì o no? Perché allora chiariamo pure quest'altra cosa, perché veramente io l'ho ascoltato delle ricostruzioni anche sul mio pensiero completamente false. Noi non abbiamo mai detto che Salvini non potesse venire a Napoli, non potesse passeggiare per Napoli, non potesse fare una manifestazione nella città di Napoli. Abbiamo fatto una cosa diversa. Siccome riteniamo che le politiche di Salvini sono improntate ad odio nei confronti dei meridionali, sono politiche razziste, xenofobe, antimeridionali, napoletani puzzano, Vesuvio pensaci tu, questo è il pensiero di gran parte della Lega, non potevamo autorizzare un luogo del comune, perché chiaramente là c'è una discrezionalità. Ma come sapete, Napoli non c'è solo la mostra Oltremare, e si era individuato un altro luogo che sarebbe stato idoneo, là vicino. L'errore, secondo me, ma con questo non è che voglio scaricare la responsabilità degli incidenti ad altri, perché io non faccio come fanno altre persone. L'errore è stato quello un po' di incaponirsi, addirittura mettere un provvedimento senza precedenti nella storia democratica, una sorta di requisizione della mostra Oltremare che ha fatto il ministro dell'Interno. Quello perché non ha aiutato? Perché il giorno prima la manifestazione, alcuni manifestanti, in modo pacifico, erano entrati nella mostra e avevano detto: qua Salvini non può parlare. Avevamo messo in campo una mediazione, qui voglio ringraziare il comune, la prefettura, la questura, tantissimi che hanno lavorato, per evitare uno sgombero. Se ci fosse stato uno sgombero violento, io non so dove saremmo andati a finire il giorno prima. Grazie a questa attività pacifica di mediazione siamo riusciti, come dire, a far modo che i ragazzi uscissero dalla mostra, perché c'era l'impegno. Perché non farlo parlare. Detto, non si può più fare. Ma per lei è giusto dire qui non deve parlare? No, sì, ma cioè, si era trovato il luogo alternativo. No, guardi, capito, secondo me, quindi lei dice è giusto qui perché era un luogo del comune e questo non. Allora, non, guardi, io la dico in questo modo: io i fascismi vecchi e nuovi non li sottovaluto. Questa è la mia posizione politica. Per me, una persona che dice che i terroni puzzano, Vesuvio pensaci tu, Napoli colera, i meridionali sono il problema del paese, gli stranieri devono essere rastrellati e buttati via, non ci abituiamo al fatto che siano frasi normali. Quindi noi abbiamo fatto una contestazione politica, pacifica, abbiamo detto: nel luogo di casa mia, se tu mi dici che io sono, devo morire, io non ti faccio entrare a casa mia. Però siccome capisco che ognuno, anche se c'è l'apologia di fascismo, però lasciamo perdere, ognuno ha diritto, articolo 21, di manifestare il proprio pensiero, e comunque io sono il sindaco, quindi al di là del cittadino che gli ha voluto dare il DASPO popolare, il sindaco ha un'altra posizione perché rappresenta le istituzioni, ho lavorato perché si potesse garantire un'altra soluzione a Salvini di farsi la sua manifestazione. al corteo di essere pacifico, e quella sarebbe stata la risposta più bella, e perciò sono arrabbiato che poche persone abbiano rovinato una manifestazione pacifica, e lo Stato poteva evitare, come dire, di fare un provvedimento che, le devo dire la verità, io da magistrato e da sindaco non ho mai visto, cioè la requisizione di un luogo. Noi adesso sapete che ce l'ha col ministro Minniti, insomma, che dobbiamo pagare anche i danni, perché la mostra Oltremare, le prima appannate di danni, la mostra Oltremare per un giorno è stata requisita, e noi tenevamo una manifestazione molto importante organizzata da alcuni giovani da mesi, che è fallita, cioè non si è fatta. Questo è il tema, si poteva avere buon senso. Invece dagli un altro posto, si è preferito far prevalere il capriccio di Salvini, che ha detto no, io la devo fare per forza alla mostra Oltremare. Questo non è stato un errore, però adesso andiamo avanti sinceramente, perché poi diventa veramente una cosa spiacevole, anche lo strappo istituzionale non aiuta questo paese. È chiaro, sindaco. Ma io chiedo al sindaco, lei ha detto quando ferveva la polemica appunto su l'intervento del governo, c'è una frase che ha dato molto adito ai suoi critici, cioè gli ha servito sul piatto d'argento un argomento, perché lei dice: io come sindaco di Napoli, ha detto, proprio protestando per l'intervento sulla disponibilità di quella sala, come ci ha appena ricostruito, io come sindaco di Napoli, qui lo Stato sono io. Mentre poi, ascoltando gli interventi che gli erano riservati, per esempio all'ingotto al PD, cominciare da Renzi in poi, la contestazione era: come da una parte ci dici che lo Stato sei tu, e dall'altra però accarezzi chi nega il diritto a Salvini di parlare. Cioè, le faccio un esempio concreto. Anche intervenendo adesso, direbbero i suoi critici, lei da una parte dice: no, io sono le istituzioni, e alla domanda tutti hanno diritto di parlare, rispondo sì. Però dall'altra parte dice: il DASPO è emesso dalla città, quindi riconoscendo, per così dire, un diritto popolare di dire questo Salvini, o chiunque la pensi come lui, qui non c'ha da venire, in altre parole. Ecco, questa contestazione che le viene fatta è: da una parte lei rivendica un ruolo istituzionale addirittura come se lo Stato fosse solo lei a Napoli, dall'altra però, per così dire, lambisce, legittima, anzi coltiva forme che con la statualità e la legalità non hanno niente a che fare. Chi la accusa di questo? Dove sbaglia secondo lei? No, questa ricostruzione l'ho ascoltata con attenzione, ma non la condivido per nulla. Io non ho mai detto che sono lo Stato. Non siamo una Repubblica a Napoli, io ho detto che rappresento l'istituzione, e fino ad ora ho rappresentato anche a Radio 24 la posizione del sindaco, certo, di Napoli. Altra cosa poi sono le posizioni, che io auspico sempre pacifiche e non violente, che possono essere anche diverse, più dure da parte di chi manifesta. E non è un caso che, siccome ho compreso che c'era una forte attenzione mediatica sulla figura del sindaco, e c'era qualcuno che già in qualche modo voleva, si capiva chiaramente, addossare qualsiasi cosa al sindaco, non ho partecipato alla manifestazione, proprio perché non è il sindaco il capo, diciamo, della manifestazione, né è il sindaco che decide una manifestazione, che manifesto ha, che coro ha. Questo, diciamo, è il popolo. Io non è che sono lo Stato a Napoli, io sono il sindaco di Napoli. Poi sono anche un sindaco del popolo, cioè sto tra la gente, ed è per questo che ho svolto un'attività di mediazione anche il giorno prima, per evitare che, perché ero preoccupato, come eravamo tutti un pochino preoccupati di questo. E poi spiace, ripeto, perché io, questa è la mia posizione di sempre, da magistrato, da sindaco, da uomo del popolo, da persona, cittadino, quando prevale la violenza, anche se di pochi, come nelle immagini di questi giorni, è una sconfitta. No, quindi insomma, questo non c'è dubbio. Mediazione istituzionale sì, illegalità no. No, ma mai. Perché finisce che quasi che poi Salvini diventi una sorta di martire. Secondo me lei c'è, poi ci sono riusciti. Io dico, da una parte Salvini non va sottovalutato, questa è la mia posizione, perché le politiche di Salvini sono pericolose, secondo me, per la tenuta democratica, non hanno nulla a che vedere con la Costituzione. Detto questo, io ho sempre detto nei giorni precedenti: seppelliamolo politicamente, con la musica, con la cultura, con l'ironia, anche con le contestazioni politiche dure. Tant'è che, se devo proprio riconoscermi in qualcosa di questi giorni, da cittadino oltre che da sindaco, mi riconosco nella canzone degli artisti Gente do Sud, Gente che non so, sì, se avete visto, è una canzone bellissima, che è stata, che però vede che lei dice io sono le istituzioni, ma usa il verbo seppelliamolo, cioè lei è di una verità assoluta, seppelliamolo politicamente, metaforicamente, ho capito, ma se sindaco, ma se qualcuno dicesse seppelliamo De Magistris, lei reagirebbe durissimo, ma seppelliamolo politicamente, se sindaco, però per concludere, ma Salvini ieri ha detto lo incontro e sono pronto a un qualsiasi incontro pubblico con De Magistris, ma scelga lui dove, come, non in un centro sociale, ha detto non in un centro sociale, in qualunque altro posto lo incontro, lei è disponibile? Allora, innanzitutto io sono sempre disponibile, non mi tiro mai indietro, non mi sono mai tirato indietro con nessuno. Voglio anche chiarire, se ho altri 30 secondi, quest'altra questione un po' spinosa che è stata cacciata dai centri sociali. Sì. Cioè, io lei avrebbe detto io sto coi centri sociali. Ma se il momento in cui Salvini dice se i centri sociali sono zecche, quando sarò ministro, quando starò al governo, sì, userò il manganello, io ho portato la mia esperienza napoletana dove ho visto il grande lavoro che in città, in modo pacifico, fanno centri sociali, comitati, associazioni e movimenti. Se poi all'interno del centro sociale, all'interno di qualsiasi categoria c'è qualcuno, diciamo, che sbaglia, il sindaco sempre non starà mai con chi usa violenza, e quindi do la solidarietà, così chiariamo anche un'altra cosa, a tutte le vittime della violenza, che le vittime della violenza sono della violenza fisica, di quella istituzionale, di quella morale, di quella psicologica, a seconda dei casi della vita. Quindi io nella mia esperienza, devo dire, in questi 5 anni e mezzo, io ho visto, e li ringrazio, il grande lavoro che in città hanno fatto questi ragazzi, questi centri sociali, che secondo me hanno fatto un lavoro importante, e c'è stato anche un accorciamento di distanza tra, sì, le istituzioni e i centri sociali, che dove c'è molto conflitto sociale come a Napoli non è proprio una cosa, vabbè, banale, forse qualche merito, ma, diciamo, lo incontra Salvini, esatto, no, ma un incontro pubblico lo fa, cosa? Ha detto di sì, cioè che è disposto a farlo, no? Ma io non escludo che un domani, visto che Salvini si vuole candidare a guidare il paese, io dopo che ho finito il sì e l'attività di sindaco ci potremmo confrontare, lui si candiderà a guidare il paese contro i meridionali, io per unire il paese. Ah, cioè sì, che il sindaco De Magistris ci dice che dopo che ha fatto il sindaco si candida. Finito il lavoro di sindaco, lei si candida contro Salvini. Contro Salvini. Italia, due modelli d'Italia diverse. Okay. Salvini nord contro sud, io tutti uniti nelle diversità. È solo che se si vota tra un anno, vabbè, lui si candida tra un anno. Incontro a te anno, nei prossimi anni lo facciamo però, a te anno. Sindaco, se lui si candida tra un anno, lei il sindaco non l'ha finito di fare tra un anno. No, potrebbe prima di mettersi. Sono impegnato a riportare Napoli, insomma, nel posto che merita. Fare il sindaco di Napoli, come vedete, non è facile, anche perché si è spesso parafulmine di tante strumentalizzazioni. Va bene, la ringraziamo, sindaco, grazie. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Allora, caro Oscar, qui insomma, vabbè, questo è, l'archiveremo questa cosa, però forse tornerà, sarà l'Italia del futuro, Salvini versus De Magistris, lo sa. Beh, sono due Italie diverse, certo, due visioni dell'Italia molto, no, non c'è dubbio, molto contrapposto, non c'è dubbio. Non lo però, so. Attenzione, io mi metto le mani avanti. Attenzione, perché le semplificazioni mediatiche, tutto questo spazio mediatico, creano anche delle illusioni percettive. Vedrai, domani si vota in Olanda. Scommetto, sì, quello che vuoi. Noi abbiamo parlato solo di Geert Wilders, come se dovesse essere il primo ministro olandese, il partito naturalmente più anti-euro, più anti-europeo, storicamente da 16 anni che combatte per questo, eccetera, eccetera. Vedrai che la scelta degli olandesi va in tutt'altra direzione, cioè non c'è nessuna chance che assuma il governo, non diventa né primo partito né secondo. Quindi tu stai dicendo ci stanno troppo spazio mediatico, no, ad alcune cose. Noi tendiamo a, sì, a sopravvalutare gli scontri e i toni duri, no? E l'abilità di De Magistris è quella di dire io sono il sindaco e contemporaneamente di dire sì, le popolazioni, quella parte che dico io delle popolazioni, è in grado di dire il DASPO, nessuno viene a parlare qua. Ecco, quella che è una delle espressioni classiche in cui dal basso si legittima, secondo me, l'illegalità totale e il fatto che la Costituzione viene calpestata. Perché, come dire, io penso che Alessandro Milan abbia i capelli non abbastanza bruni per essere davvero italiano. Qua non viene a parlare, capisci che non è accettabile. Tra l'altro, a proposito dei capelli, hai citato, tu che tagliavi i capelli a Matilde, hanno scritto che forse per contrappasso è per questo che tu non hai tutti i capelli. E hanno ragione, e io non mi arrabbio per questo, perché sono delle cose, dei dispetti del piffero di cui mi vergogno ancora adesso. E per questo sei stato punito. E sono stato punito. E in questo caso ci sta, perché sono cose che io nell'ora di disegno avevo le forbicine e le facevo come un cretino. Di quelle maledizioni, Matilde. Ma pensi che Matilde era così superiore a me, più matura, che non mi dava un ceffone, perché me lo meritavo, meritavo anche un calcio, a dire la verità. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi ci sono tanti ascoltatori, sia su De Magistri, su Salvini, sia sul tema legittima difesa che tra poco affronteremo. Insomma, puntata briosa, briosa, state con noi. Team Napoli. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci Oscar, guarda quanti ascoltatori che ci chiamano. Cominciamo da Treviso, Matteo, buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno. Niente, volevo solo dire una cosa, premesso che non sono leghista, però io in primo non ho mai sentito Salvini parlare di Vesuvio Lava, di usare quei toni da stadio che sono completamente così. Sì, c'è un vecchio coro da stadio dei tifosi del Milan. Vabbè, ma questo non è mica rappresentativo dell'idea della Lega, questo comunque. E un'altra cosa, Salvini forse criticava la gestione che hanno le amministrazioni meridionali della cosa pubblica, non il meridione in quanto tale, che è ben diverso. Sì. E se De Magistri non accetta questa critica, probabilmente anche lui non si vuole confrontare, non vuole. No, credo che non accettasse più quel vecchio coro che insomma ha fatto, per il quale Salvini ha chiesto scusa mille volte. Però insomma l'ha bollato un po' come razzista nei confronti dei napoletani. Questo credo che questo sia il punto, no Oscar, principale, proprio oltre alle politiche magari sugli immigrati. Sì, però credo che il nostro ascoltatore, almeno nella mia modestissima opinione, abbia ragione nell'identificare De Magistris su un punto che è quello della ricerca mediatica. Cioè De Magistris tende a intestarsi, lo fa sempre quando storina la sua rivoluzione dal basso napoletana, la questione, quello che non fa più la Lega con Salvini ambisce a essere partito nazionale. De Magistris vuole una rappresentanza che non identifica nessun partito, ma in se stesso, nella sua esperienza, in cui parla a nome di un sud popolare che fuori dai partiti decide lui che cosa è libertà, democrazia, chi ha diritto di parlare, il daspo popolare, attenzione, questo vuol dire. Hai visto sul Corriere oggi anche Umberto Bossi critica Salvini, dice ma cosa ci vai a fare a Napoli a prendere voti di critica durissimamente, fascistori. Non è una novità che Umberto Bossi oggi, pensi oggi che alza ancora i toni, sia sbagliato integralmente il disegno di Salvini. Vediamo cosa ci dice Marco da Milano. Buongiorno Marco. Pronto? Eccoci. Eccoci qua, ciao. Allora, invece a proposito dell'uso delle armi del fuoco per la legittima difesa. Sì. Io in primis concordo con quanto ha detto Oscar sulla difficoltà di implementare un criterio di proporzionalità, come del resto diceva anche l'avvocato Buongiorno. E tra l'altro in una volta trasmissione avvenuta a seguito di un episodio analogo. Sì. Ma secondo me c'è anche un altro aspetto, purtroppo, o per fortuna secondo alcuni, che è culturale in Italia, in Europa in generale e in Italia rispetto agli Stati Uniti. Noi abbiamo fatto come massimo vessillo del nostro comportamento il valore sacro della vita umana sempre e comunque, anche della vita umana del, tra virgolette, cattivo. Un'impostazione culturale invece diversa, che io però mi sento di condividere, essendo anche un paese che frequento soventemente, è quella statunitense, dove il cattivo, chiamiamolo aggressore, effrattore, ha tendenzialmente sempre e comunque torto, anche in base a un principio, secondo me, cristallino, che chi compie un reato, che è in procinto o si accinge a compiere un reato il più delle volte violento, ha sempre torto e perde quindi le tutele che sono garantite all'individuo, ma nell'atto in cui lui compie il reato queste tutele vengono perse. Marco, lei ma chiaramente dice, e lei vorrebbe più questo principio, cioè il principio americano proprio della inviolabilità della proprietà privata, della sacralità della proprietà privata, per cui metti un piede sulla mia proprietà senza autorizzazione e magari anche in tono un po' aggressivo, in quel momento perdi tutte le tutele a essere considerato come avere ragione, quindi io ti tiro una schioppettata, ecco questo Marco. Naturalmente gli ordinamenti sono diversi nei loro fondamenti costituzionali. L'ordinamento americano e anglosassone vede nei diritti naturali preesistenti all'ordinamento il fondamento di ogni società, cioè nei diritti alla vita, alla libertà, alla proprietà, il diritto a perseguire la felicità, come dice la dichiarazione dei diritti americana. No, è proprio una tradizione che è completamente diversa dalla nostra, che è diritto codificato di stampo continentale, in cui l'ordinamento dice: voi non esistete come individui prima di me, esistete solo in quanto io vi riconosco cosa potete fare. Purtroppo anch'io amo l'altro mondo, ma questo è un mondo diverso dal punto di vista. Però vediamo, da questa considerazione, cioè dall'America, il confronto con l'America, vogliamo coinvolgere Carlo Nordio. Buongiorno e ben ritrovato, dottor Nordio. Eccoci qui. Buongiorno, grazie per l'invito. Perché ovviamente molte persone, quando si parla di legittima difesa, dicono: ma insomma, stiamo a disquisire l'eccesso di legittima difesa, lo sparo nella schiena, uno sparo, due spari. La nostra legge lo fa, il nostro ordinamento lo prevede. Molti però vorrebbero, come dire ma mi sei entrato in casa di notte, ma cosa vuoi? Stiamo a discutere di questo? Bisogna discutere? Beh, certamente bisogna discuterne, perché le problematiche, vorrei dire le deviazioni del sistema, sono davanti agli occhi di tutti. In realtà se ne è discusso, e già 10 anni fa l'allora ministro della giustizia, l'onorevole Castelli, fece approvare una riforma dell'articolo 52 sulla legittima difesa, e l'articolo oggi è abbastanza chiaro, nel senso che se si difende la propria incolumità o anche i propri beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione, non si è puniti. Però il problema rimane, e rimane perché, come mi pare abbiate accennato adesso, io non ero ancora in collegamento, è la stessa struttura del nostro codice che non consente una difesa appropriata e avanzata. Se ho 30 secondi posso spiegarla. Sì, certo. Così. È prezioso. Il nostro codice è firmato da Benito Mussolini e da Vittorio Emanuele III, è del 1930, ed è un codice fascista, e parte dal presupposto che lo Stato sia una sorta di mamma o di tutore che limita i diritti dei cittadini e comunque fissa i confini entro i quali i cittadini possono esercitare i loro diritti. Un codice liberale invece dovrebbe essere l'opposto, dovrebbe chiedere lui allo Stato quali sono i limiti entro i quali lo Stato può punire una persona che reagisce davanti a un'aggressione che lui, Stato, non ha saputo difendere. Cioè un codice liberale mette in primo piano il cittadino, sì, che ha devoluto allo Stato l'esercizio dei suoi diritti inalienabili, e quindi considera lo Stato come primo inadempiente quando lui cittadino viene aggredito in casa. Quindi è tutta la filosofia del codice che dovrebbe essere cambiata. Sì. Se la riforma di 10 anni fa non ha funzionato come allora pensavano, e io all'epoca immeritatamente presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, lo disse il ministro, non cambierà nulla, l'articolo 52 anche oggi può essere cambiato finché si vuole, ma finché rimane nell'ambito di quelle che oggi si chiamano scriminanti o condizioni di non punibilità o come le vogliamo chiamare, i problemi resteranno, perché ripeto, oggi il codice penale mussoliniano firmato dal re Vittorio Emanuele III suona così: io Stato ti dico i limiti entro i quali tu ti puoi difendere. Un codice liberale invece dovrebbe dire: io cittadino chiedo allo Stato quali sono i limiti in cui lui può punire quando io sono stato aggredito per un fatto che tu Stato non hai saputo impedire. Sì, il ribaltamento dell'impostazione. Ma purtroppo sai. Però vede, dottor Nordio, appunto, ieri in appello hanno assolto il tabaccaio che era stato condannato a 2 anni e 3 mesi e 300.000 euro di risarcimento danno in primo grado, Birolo. Certo. E poi si disquisisce, colpito alla schiena, ma chi sta a vedere la dinamica di notte? Chi può stabilire se io mi sentivo di notte proporzionalmente aggredito e quindi ho sparato 2 volte allora, invece che una? Certo, questo è un altro punto fondamentale, nel senso che è vero che la logica della proporzione deve essere sempre tenuta presente, non si può sparare alle spalle del ladro di galline che sta scappando. Però se una persona entra in casa di notte o anche in negozio, io non posso sapere se è venuto a rubare la biancheria armato di una fionda o se invece è venuto a violentare la moglie o magari a rapinare o a uccidere. O se è girato, quindi, in quel momento al buio, lo colpisco alle spalle, certo, ma è girato, è al buio. Certo, che ne so. Però questo, anche se fosse introdotta, e probabilmente lo sarà, la riforma sulla cosiddetta turbativa, cioè bisogna tener conto dello stato d'animo psicologico in cui si trova l'aggredito di notte, eccetera, non cambierà molto, perché non solo l'indagine ci sarà sempre lunga e dolorosa, ma anche la cosiddetta formula assolutoria sarebbe sempre la stessa, cioè quella del fatto che non costituisce, esatto, reato. Come ieri. Che significa una, ecco, che significa una cosa? Che io Stato riconosco, dico che tu hai commesso un reato, ma non ti punisco perché sono buono, perché ti giustifico. Esatto. Invece in un'ottica liberale, bravo, un codice liberale dovrebbe suonare il contrario, cioè dire, quando tu hai agito in stato di legittima difesa, hai commesso un fatto che non sussiste come reato. La formula assolutoria, che il fatto di reato non sussiste, non solo è molto più liberatoria, ma impedirebbe, eviterebbe anche tutto quel contorno di indagini che oggi si devono fare obbligatoriamente in presenza di questa scriminante. Caro Alessandro, come vedi, la filosofia del diritto, che è la vera differenza che imposta un codice di tipo statualista da un codice di tipo liberale, è una materia molto importante, perché di lì vengono le conseguenze di ogni norma tra libertà del cittadino e imposizione dell'ordinamento costituito. So che sembrano cose polverose, ma invece hanno a che fare con una dimensione quotidiana di ogni, certo, ogni gesto come cittadino. Ma lei, Nordio, quando vede i dibattiti con le persone in TV, l'avrà visti, no? Quando succedono, il cliché è il solito, fatto di cronaca, dibattiti in cui ci si divide, è giusto, non è giusto, urla e grida. Urla e grida. Ecco, cosa, cioè, capisce un po' anche il sentimento popolare di chi dice, ma non facciamo troppe disquisizioni, mi è entrato in casa come in America, gli sparo, appunto. È proprietà privata, ma mi ha minacciato, no? Per carità, il diritto e anche la politica non devono assecondare e ancor meno diciamo aizzare la pancia del popolo, però il sentimento popolare va tenuto in considerazione, soprattutto quando riflette non solo un interesse diffuso, un sentimento diffuso, ma anche una profonda logica interna. E al di là delle grida e delle polemiche che tra l'altro spesso ruotano attorno a delle formule stupide e vuote come quella della legge del Far West, non ha niente a che vedere la legittima difesa con la legge del Far West. Nel Far West non c'era la legge, mentre qui la legge c'è, ma semplicemente modificata. Oppure sul fatto che uno si faccia giustizia da sé, anche questa è una sciocchezza. Si fa giustizia da sé il proprietario derubato che va a riprendersi la refurtiva a casa del ladro o che va a punire l'assassino che gli è entrato in casa, ma chi si difende durante un'aggressione in atto non si fa affatto giustizia da sé, semplicemente si sostituisce allo Stato che non ha saputo impedire quell'aggressione. Quindi è una sciocchezza colossale sentir parlare di Far West, di giustizieri della notte, eccetera, eccetera. E questo effettivamente mi irrita quando lo sento per televisione nei dibattiti da parte di questi dilettanti della giustizia che non sanno neanche di cosa stanno parlando, o forse lo sanno e sono in malafede, recitano una parte, recitano una parte. Noi la ringraziamo, Carlo Nordio, sempre chiaro, lineare, pulito, magistrati, ci spiega così, le cose, è uscito dalla carriera, bisognava riprodurlo, clonarlo, altro che la pecora Dolly, 10, 100, 1000 Nordio. La pecora Dolly non è male, l'OGM Nordio. Va bene, dai, ringraziamo Carlo Nordio, ci fermiamo con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè in regia. E auguri a Matilde, scusa no, Matilde, no, hai perso i capelli ormai, puoi chiedere tutte le scuse ma del chiedo mondo, chiedo scusa ma Matilde ti ha punito, io perdono, chiedo perdono a Matilde, ai laziali un po' meno, però va bene così, anch'io ai laziali, dovete perdere un po' di più, se no non arriviamo nelle coppe. Ci vogliono pure loro insieme agli juventini, va bene, dai, a domani.